Ed eccoci di nuovo in voce. Buonasera a tutte e tutti, bentrovati. Stasera parleremo di qualcosa di un pochettino diverso rispetto a quello di cui ci siamo occupati nelle precedenti puntate. Non diverso, non qualcosa che non c'entri con la geologia, perché diciamo che è l'argomento principe della geologia in Italia. Parleremo di terremoto, del terremoto che ha interessato il centro Italia circa un anno fa, e lo faremo insieme agli amici delle associazioni con cui abbiamo iniziato a collaborare da diversi mesi, Alter Ego, la fabbrica dei diritti, con Riccardo, ben trovato, Eleonora della Via del Sale Onlus. Parleremo del terremoto sia da un punto di vista geologico e per avere un quadro introduttivo di cosa è stato e quali sono le caratteristiche del territorio che è stato colpito, e poi invece ci concentreremo con Riccardo ed Eleonora su quello che sono state le conseguenze di questo terremoto nell'ambito, diciamo, sociale, antropologico, e poi per quanto riguarda tutta la normativa e quindi ciò che è stato fatto e ciò che non è stato fatto. Ora, per avere un quadro più dettagliato sugli aspetti geologici generali che hanno interessato l'area, ci colleghiamo telefonicamente con un altro socio di Geologia Senza Frontiere, Marco. Marco, ci sei? Ci senti? Ciao, ben trovato. Con te volevamo un attimo inquadrare, diciamo, l'evento. Volevamo capire di che cosa si è trattato e come mai ci sono state una serie di terremoti di una notevole intensità che hanno caratterizzato il territorio nel giro di pochi mesi, se questo appunto è un aspetto significativo. Dunque, sul perché diciamo questi eventi accadono in Italia, come insomma immagino che avrete già discusso altre volte, l'Italia è in un equilibrio dinamico, cioè in evoluzione nel tempo. Si muove l'Appennino, che diciamo rappresenta un po' l'ossatura dello stivale italiano, in realtà è in continua evoluzione, migra, diciamo, nella sua storia geologica tendenzialmente verso est, nord-est, e alle spalle di questa migrazione genera una serie di tensioni, di estensioni sulla cresta più alta dell'Appennino, in cui diciamo i regimi tettonici che si sviluppano sono di tipo distensivo. E i terremoti che hanno interessato, diciamo, la regione del centro Italia, tra Lazio, Marche e Umbria in questi ultimo anno, e che ancora stanno interessando l'area, ricadono, diciamo, un po' in questo contesto geodinamico generale, in cui esiste una forza di estensione, cioè ci creano una serie di forze che, per semplificare, è come se allontanassero due lembi opposti dell'Appennino, della cresta dell'Appennino, fra loro, generando dei bacini. Questi bacini noi li possiamo osservare, sono quelli che poi rappresentano il paesaggio di quelle parti, certo. Piano di Castelluccio, la Valle Umbra, i piani di Campotosto, eccetera. Diciamo che quelle cose che noi ammiriamo, quelle meravigliose fotografie dell'infiorata delle lenticchie di Castelluccio che storicamente conosciamo tutti quanti, esistono proprio perché esistono questo tipo di forze in gioco che le generano, quei certo, bacini. Certo. E quindi, insomma, sostanzialmente ci stai spiegando come appunto poi in realtà da nord a sud, dai margini più settentrionali della catena appenninica fino alla Calabria, appunto, la Sicilia, certo, tutta la dorsale è caratterizzata appunto da questi sistemi di faglie che si alternano e si concatenano, sostanzialmente, perché chiaramente non è tutto unico. Rispondono, diciamo, tutti quanti a uno stesso contesto geodinamico e vanno a generare tutti quei bacini che noi conosciamo dalla Liguria fino alla Sicilia. Cioè, se uno pensa, correndo per l'Appennino appunto dalla Liguria, pensa alla Lunigiana, al Mugello, al Casentino, alla Tiberina, col Fiorito, in Norcia, e di andare fino a Fucino o anche ai bacini intramontani molisani o siciliani, tutti quei bacini che costellano, diciamo, tutto l'arco appenninico nella sua parte più alta, sono frutto di questo tipo di cinema di forza che porta appunto a una distensiva che genera appunto periodicamente dei terremoti, che si esplica attraverso i terremoti. Certo. In questo caso abbiamo assistito sicuramente a uno dei fenomeni più forti dal 1980 ad oggi, se uno considera il terremoto, certo, del 30 ottobre, e che ha diciamo che tra virgolette rientra nella normalità di questo paesaggio, anche se chiaramente nel momento, anche se si manifesta con magari con tempi di ricorrenza millenari, no? Esatto. Cioè, e su questo infatti penso che sia l'aspetto cruciale del discorso poi che faremo successivamente, il fatto che stiamo parlando di qualcosa che si ripete nei secoli e nei millenni, caratterizza l'Italia appunto nelle ultime migliaia di anni, è un processo in atto che quindi non si interromperà sicuramente a scala di tempo umana, e quindi molta importanza all'aspetto della memoria, del recupero di cosa è stato, e cioè, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia questo l'ha fatto e lo continua a fare, quindi da qui volevo stimolarti su questo aspetto. Infatti esattamente dovrebbe essere proprio questo, diciamo, rendersi conto, perché purtroppo insomma lo vediamo, per chi poi lavora nel settore se ne accorge sempre più spesso, il fatto che i tempi di ricorrenza di queste strutture, parliamo per esempio adesso della sequenza che è accaduta appunto l'anno scorso, è accaduta su una struttura, su un sistema di faglie conosciuto, noto, certo, dal punto di vista geologico, cartografato e evidenza, che però magari era fermo dal punto di vista sismologico da IV secolo avanti Cristo, oppure meno, per quella struttura, no, per quella struttura, certo, per quella struttura sorgente. Certo. Il problema è che non esiste solo quella struttura, no? Esatto. Cioè, adesso si è mossa, diciamo, la struttura Monte Vettore, che va da Matrice, per intenderci, fino quasi a Camerino, per oltre 40-50 chilometri, passando per la Piana di Castelluccio, Ussita, fino a Cupi e così via, ma tutto quell'arco insomma, il centro Italia è in realtà costellato da una serie di quei bacini. Se uno si sposta leggermente più e pensa a Norcia, lì c'è un'altra struttura che magari ha tempi di ricorrenza differenti, no? Quindi adesso magari si è sbloccato un settore di Appennino centrale che è rappresentato appunto dalla sequenza che abbiamo assistito, ma poi potrebbe, abbiamo, insomma, tutta una struttura in evoluzione, certo, che appunto potrebbe partire da un'altra parte, come adesso, ma infatti è il normale, diciamo, è nella sua normale evoluzione, insomma. Infatti, noi che dobbiamo renderci, certo, a questo proposito io prima di iniziare la trasmissione sono andato velocemente a riguardarmi insomma è pieno sulla rete, è pieno di archivi, innanzitutto l'INGV li ha pubblicati, e questo è utile secondo me per farsi un'idea. Quello che forse è la cosa più difficile da far passare come messaggio, che penso sia più quasi un messaggio culturale, cioè immaginarsi che non è terrorismo, è semplicemente avere una comprensione ampia e completa di quello che è stato, di quello che sarà, e quindi insomma di quello che ci dobbiamo aspettare. Bravissimo. Arrivare. Sì, tanto è vero che insomma se uno prende la sequenza del centro Italia dal 24 agosto del 2016 ad oggi, solo in quel settore di penisola sono stati registrati oltre 75.000 terremoti, ed è una sorgente in evoluzione che ne farà ancora. Stanotte, l'evento di Matrice di questa notte, che sicuramente ha riportato, diciamo, alla ribalta la sequenza in corso, perché è stato un magnitudo 4, circa 4, magnitudo momento 4, ML 4.2, stiamo parlando, riporta, diciamo, di nuovo, fa capire che quell'evoluzione non è ancora finita. Nello stesso tempo stiamo parlando di un fenomeno che è circa 10.000 volte più piccolo di quello del 30 ottobre, certo, 1.000 volte più piccolo di quello che è accaduto il 24 agosto, insomma, e se uno ha, diciamo, la voglia ho la curiosità di mettersi su uno di questi siti che citavi tu, come per esempio quello del database di NGV, si accorge che l'Italia in questi minuti, mentre noi parliamo, in realtà lungo tutto l'arco appenninico l'NGV registra piccoli questa evoluzione in corso, insomma. Certo. Va bene, io direi che... Non so se vuoi altre informazioni o curiosità. Diciamo che per stasera, visto che abbiamo anche due ospiti in radio, direi che come quadro ci possiamo fermare qui e ti ringraziamo. Magari un'altra volta più in là lo riprendiamo proprio dal punto di vista geologico, lo riaffrontiamo in maniera più approfondita. Diciamo che ci serviva... per riprendere un po' il quadro di quello che è successo degli eventi dello scorso anno, per di nuovo introdurre l'argomento e rientrare nella discussione con chi ci vive e con chi ha fatto poi qualcosa. Quindi, allora vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di trasmissione. Grazie mille. Grazie. E noi ci fermiamo qui per una piccola pausa musicale e ci risentiamo fra qualche minuto. The silence howling. Arctic ball. And the all-time winner has got him by the balls. Oh, he picks up Gideon's Bible. Open at page one. I thank God he stole the handle. And the pain and won't stop. Oh, I know it could slow down. E questi erano i Jethro Tull con Locomotive Breath. Siamo di nuovo in voce a Entropia Massima e Geologia Senza Frontiere, che parla di Emergenza Zero, la rubrica su Entropia Massima, appunto, che affronta i temi degli eventi naturali, ma visti e considerati con gli occhi di chi li vive, di chi poi si muove, anche di chi poi reagisce e si organizza. Quindi ripasso la parola ad Andrea per continuare. Ed eccoci. Allora, dopo aver affrontato l'aspetto, diciamo, prettamente geologico e prettamente, diciamo, naturale dell'evento che ha caratterizzato, degli più eventi che hanno caratterizzato il centro Italia l'anno scorso, come ben sapete. Ora, come in introduzione dicevo, vorremmo poi concentrarci più che altro sugli effetti, sulla fase emergenziale, il post emergenza, cosa è successo, cosa ha funzionato, cosa di sappiamo purtroppo tanto non ha funzionato, e ne parliamo con inizierei con Eleonora della Via del Sale Onlus. Buonasera a tutti. Allora, voi siete una onlus che si è costituita subito nelle immediate ore successive al primo terremoto, quello del 24 agosto, quello detto di Amatrice, ma in realtà con epicentro a Cumuli. Questa è una precisazione puramente geologica, ma va fatta. Quindi, insomma, volevamo un po' parlare con te di cosa avete fatto, di perché vi siete mossi subito nei primi momenti, e quali sono poi state le evoluzioni di questo incontrarsi e mettersi in associazione. Ma ti spiego, in realtà è stata una scelta un po' obbligata, perché ci trovavamo insieme sul posto. Noi siamo ragazzi di Leonessa e Città Reale, che sono entrambi nella provincia di Rieti e a pochissimi chilometri da Amatrice, e quindi, ecco, originari o residenti in quei luoghi, ed essendo estate eravamo tutti lì insieme, quindi è successo che l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle il terremoto. Ed è stato, ecco, come dicevo prima, obbligata la scelta di partire subito e andare a prestare soccorso, a volte aiutando e tirando fuori dalle macerie la vita, altre volte purtroppo la morte. Certo. E quindi, insomma, da questo impatto estremamente duro che c'è stato con il terremoto, vi siete resi conto che tanto andava fatto, tanto serviva nelle primissime ore. E quindi poi come vi siete organizzati? Vi siete organizzati con una raccolta dei beni di prima necessità, mi dicevi? Sì, in realtà è stata una cosa nata un po' per caso, perché ci siamo premuniti di qualche cosa, ecco, tipo panini, acqua e beni primari, e li abbiamo sistemati in un centro lì a Città Reale, abbiamo tirato su questo centro di prima emergenza, e in realtà poi la cosa ci è un po' sfuggita di mano, perché si è sparsa la voce e nei luoghi intorno, ma anche da tutta Italia, arrivavano tir per scaricare gli aiuti. E per circa 15 giorni ci siamo occupati noi esclusivamente, insieme agli amici delle Brigate di Solidarietà Attiva e altre realtà che ci hanno aiutato, a prenderci cura delle persone rimaste nelle frazioni, che erano completamente isolati, perché la Protezione Civile, purtroppo, per difficoltà e anche un po' per forse, diciamo, non erano molto preparati a questo evento. Per struttura propria, per sì. Come si devono muovere. Esatto, non c'era una base solida da poter prendere in considerazione per aiutare. Questa cosa del raggiungere le frazioni più lontane dai centri principali è stata una dei problemi più gravi. Guarda, giusto? Ti spiego, noi ci aiutavamo con l'aiuto di Trial e altri mezzi che sono veloci, quindi era facile raggiungere queste frazioni dimenticate, la periferia del terremoto, come l'abbiamo spesso chiamata noi. Però effettivamente c'erano persone che dicevano grazie, meno male che mi portate l'acqua perché non bevo da ieri, perché noi dal giorno prima non li avevamo raggiunti, perché era un po' un muoversi ciclicamente per poter arrivare da tutte le parti, quindi sicuramente qualcosa non ha funzionato. E posso chiederti un po', proprio appunto, per riuscire a gestire una situazione del genere, in quanti vi siete mossi? Eravamo circa una quarantina di persone e anche di più probabilmente, perché poi ti ripeto, si è sparsa un po' la voce, quindi veramente tantissime persone. Adesso tante volte non ricordo neanche i nomi, per quanti eravamo, chi andava in giro, chi faceva la catena per svuotare questi tir, chi poi sistemava le cose, e altri ancora preparavano pacchi da distribuire poi in giro. Certo. E Da questa esperienza, diciamo proprio dei giorni appunto dell'emergenza, poi invece siete diventati una onlus, quindi sì, vi siete strutturati e siete rimasti. Come è andata? Ti spiego come è andata. Molti di noi dovevano rientrare alla base, diciamo così, chi ha il proprio lavoro, allo studio, e quindi magari tornare a Roma. E il problema è stato: adesso che facciamo? Ce ne andiamo e dopo tutto quello che abbiamo vissuto dimentichiamo così e torniamo al lavoro continuando a fare le proprie cose? E quindi abbiamo detto: aspettiamo, vediamo un attimo la situazione, di cosa c'è bisogno, delle casette, perché la gente, le persone anziane, gli invalidi erano ancora in tenda. Allora abbiamo detto: facciamo una cosa, pensiamo in grande, diventiamo associazione e continuiamo la nostra opera spostandoci dall'emergenza primaria di alimenti, vestiario e quant'altro a quella abitativa, che purtroppo in alcuni casi è ancora presente. È ancora, sì, siamo ancora in questo momento. E quindi insomma abbiamo avuto un primo assaggio di cos'è stato tutta la prima fase post-emergenziale, prima di addentrarci poi ulteriormente nel discorso che stava portando avanti Eleonora, quindi dell'evoluzione della loro associazione. Volevo sentire parlare anche con Riccardo di Alter Ego, la fabbrica dei diritti, un'altra associazione che si è sostanzialmente impegnata fin dalle prime ore, fin dai primi momenti successivi al terremoto. Questo perché? Perché tu, Riccardo, mi dicevi sei originario di Amatrice. Sì, buonasera a tutte e a tutti. Sì, io personalmente sono originario, una parte della famiglia che è originaria proprio di Amatrice. Sì, sono cresciuto, non sono residente lì, sono residente a Roma, ma sono cresciuto ogni estate, diciamo, con gli amici di Roma e gli amici amatriciani. Passavamo le nostre estati lì da quando sono piccoli, quindi molto legato a quei territori, ieri e ancora oggi, forse più di prima, perché la nostra esperienza è stata molto diversa da quella di Eleonora, ma con lo stessa passione, stesso intento. E quindi con un'esperienza che poi appunto è simile per quanto riguarda gli affetti e tutta la parte che riguarda appunto l'emotività e la famiglia. Per quanto riguarda invece le tue competenze, le tue conoscenze, tu ti sei impegnato con la tua associazione in che modo? Raccontaci un po'. Allora, sì, diciamo l'Alter Ego Fabbrica dei Diritti è un'associazione che è nata poco tempo fa, in realtà nata dall'esperienza di uno studio legale, invece, di avvocati e giuristi specificatamente, che ha cercato di partire con un'idea un po' diversa del classico studio legale. Quello che ci univa all'inizio è stato proprio un tentativo di raccontare la realtà anche le notizie che vengono date da un punto di vista legale. Quindi lavorare sul diritto che oggi viene considerato un mezzo molto spesso atto a dare risposte o pareri legali e a risolvere questioni personali. Uno va dall'avvocato per questo motivo, perché ha dei problemi, certo, e si aspetta delle risposte. Invece il diritto diventa secondo noi uno strumento che è inclusivo, partecipativo, qualcosa che il nostro motto è: la storia di ogni individuo è la storia di tutti noi, proprio perché ogni applicazione pratica individuale del diritto nasconde poi dei problemi che sono collettivi. Da questa la nostra idea proprio di andare a abbassare un po' quell'asticella che molto spesso di comunicazione del diritto che l'avvocato tiene, certo, per cercare di spiegare il diritto a più persone possibili. Quindi su questo ragionamento, dopo ovviamente il 24 agosto del 2016, l'evento sismico principale che ha portato danni e soprattutto morte alla matrice, le maggiori vittime, abbiamo deciso di partire da Amatrice, mossi ovviamente sia da un motivo umano, anche per chi era coinvolto personalmente, ma anche con un'intenzione professionale, cioè andare a affrontare un'emergenza sul campo, spostandoci quindi come avvocati e giuristi sul campo, cercare di conoscere quali erano le esigenze reali e di come potessero essere tradotte in soluzioni che poi potevano portare noi personalmente e professionalmente a spiegare il diritto alle persone. Quanta esigenza c'era di diritto in quel momento, che sembra un aspetto secondario, ma sicuramente subito dopo l'emergenza è secondario, ma a lungo andare diventa estremamente rilevante. Infatti devo dire che da quando ti conosco e da quando ho conosciuto la realtà di cui fai parte, che hai creato, la cosa che mi ha colpito di più è questa, appunto, questa idea molto in controtendenza rispetto al mondo degli avvocati, della giurisprudenza, cioè questa idea di addirittura fare uno sportello legale gratuito settimanale, mi dicevi, bisettimanale anche. Sì, diciamo che allora fortunatamente di colleghi che affrontano in questo modo il diritto non sono l'unico, ce ne sono molti che hanno, diciamo, questa visione di assistenza legale gratuita, anche perché in una condizione di questa, più che assistenza legale, informazione gratuita. Certo. Quindi partiamo proprio dalla base: che cos'è il diritto? Il primo approccio che ci ricordiamo, magari chi vive in città o nelle grandi metropoli sa come approcciarsi e rivolgersi alla pubblica amministrazione, alle istituzioni, perché sono delle prassi, delle pratiche che ognuno di noi, vivendo in, certo, una città, lì il rapporto tra cittadino e istituzioni cambia. Stiamo parlando di piccoli comuni dove il sindaco è conoscente, amico molto spesso, in cui le discussioni si svolgono anche al bar. Quindi quando poi il cittadino vede magari i suoi diritti non tutelati, il primo approccio che ha è proprio di ricercare quel bar e quella chiacchierata con il sindaco, con l'amministratore, cosa che durante un'emergenza, anche per quanto diceva Eleonora, l'arrivo delle istituzioni, un'invasione, una passatemi il termine, ma una militarizzazione effettiva del territorio, perché subito dopo te lo passiamo ragazzi, dopo l'emergenza c'era l'esercito, protezione civile, carabinieri, vigili del fuoco, soprattutto nello spazio Amatrice è stato un assedio da parte dei corpi istituzionali d'emergenza, che ovviamente erano lì, ma che poi ha comportato un cambiamento totale della vita e delle abitudini. Certo. Noi pensiamo, tu cittadino vieni spogliato di quelle che sono le tue, diciamo, dinamiche, anche, diciamo, delle tue, diciamo, garanzie tante volte, no? Se ognuno di noi prova a immaginare che cosa vuol dire svegliarsi il 24 agosto, svegliarsi e aprire gli occhi dopo la scossa, vuol dire che trovi una distruzione totale, perdite di affetti, amicizie, futuro, anche l'idea di futuro che hai che si sgretola, ma i giorni dopo inizi a capire come non soltanto materialmente o gli affetti sono scomparsi, ma iniziano a cambiare proprio le regole base della tua vita. Tu non sei più una carta d'identità, ma sei identificato magari da una scheda AEDES che identifica quello che è il danno che ha avuto la tua casa, e da quella scheda AEDES partono una serie di diritti riconosciuti o meno la scheda AEDES è la scheda che viene utilizzata per periziare i danni subiti alla propria dimora o alla propria azienda, quindi agli immobili. Da lì iniziano a partire quindi un cambiamento totale di quello che per noi è l'ordinario, cioè noi abbiamo dei diritti in quanto cittadini e in quanto comunque sia, ecco, residenti nel nostro stato, e quindi ci vengono riconosciuti i diritti. Lì cambia tutto e cambia le abitudini base: andare a mangiare, dove andare a mangiare, alle mense che vengono aperte e poi chiuse. Da lì quindi abbiamo deciso ovviamente di mettere mano al decreto terremoto, il principale del decreto 189 del 2016, che tutt'oggi rimane il corpus normativo fondamentale per la disciplina legale, e tutte le ordinanze che poi lì, come da sempre avviene, perché in Italia l'emergenza viene sempre gestita da un punto di vista normativo con misure d'urgenza. E qui ovviamente poi si dovrebbe aprire un'enorme parentesi sulla necessità che oggi c'è di una legge unica sulle emergenze, che a quanto pare ancora non è in discussione. Comunque sì, abbiamo iniziato a studiare ordinanze del commissario per la ricostruzione, protezione civile, interventi regionali e le modifiche anche alla legge, per andare proprio a spiegarle. Il risultato finale è stato quello di comprendere da una parte che c'era necessità di chiarificare quelle che sono le norme. Abbiamo quindi redatto un vademecum legale, distribuendo su tutto il cratere, che riassume tutta la disciplina normativa, OIS, il vademecum, che poi il nome anche è stato trovato con questa idea proprio di farsi forza, l'OIS che fanno i marinai durante, certo, una tempesta, per tirare le corde tutti insieme per non far affondare la nave. Dopo il vademecum abbiamo invece iniziato a fare delle assemblee legali pubbliche o degli sportelli legali invece individuali, proprio per ascoltare la popolazione. Ecco, quindi direi che con Riccardo ci ha accompagnati attraverso, diciamo, la fase, insieme a Leonora, la fase del terremoto, cioè quello che succede nelle primissime ore, e poi ha iniziato a darci molto bene l'idea di quella precarietà che penso, insomma, si possa vivere giorno per giorno, e probabilmente giorno per giorno aumenta. E quindi in questo ideale percorso temporale mi piace adesso sentire da Leonora, dalla Via del Sale Onlus, che cosa è stato fatto da loro successivamente, perché poi la questione, diciamo, dell'abitare diventa l'elemento chiave. Ecco, io farei, scusatemi, un'altra piccola pausa musicale, perché stiamo a un quarto d'ora dalla fine, brevissima, e ritorniamo fra pochissimo in voce con Eleonora, e riprendendo lo stesso discorso. E allora di nuovo in voce con Entropia Massima, la rubrica Emergenza Zero, si parla sempre di sisma e siamo di nuovo, ripasso la parola ad Andrea. Che costituisce la Via del Sale, che come scusate non avevamo alzato la voce, piccoli problemi tecnici e quindi come stavo dicendo mentre ero muto, il discorso lanciato prima dello stacco, entriamo nella questione del post emergenza, cioè di quello che riguarda non tanto la ricostruzione, che è un grande argomento, ma soprattutto trovare la sistemazione nei luoghi, quindi nei comuni colpiti, affinché le persone non restino, come purtroppo è successo a lungo e a tuttora, fuori dai loro comuni e molto lontani. Quindi con Eleonora della Via del Sale vogliamo un attimino capire cosa hanno fatto di, devo dire, dal mio punto di vista straordinario, perché cosa avete fatto? Avete consegnato? Abbiamo consegnato 31 moduli abitativi, parliamo di casette su ruote, tutto grazie a raccolta fondi iniziata ai primi di settembre per questo progetto chiamato Una casetta per Amatrice, che in realtà di Amatrice è rimasto solamente il nome, perché poi da lì ci siamo allargati tantissimo, abbiamo coperto tutto il cratere, quindi Lazio, Umbria, Marche e in Abruzzo. In Abruzzo addirittura siamo riusciti a costruire una casa vera e propria dalla struttura in legno, quindi antisismica, garantita per la vita, per una situazione molto molto bella, ossia una bambina che soffre di gravissime disabilità e Aurora insieme alla sua famiglia era sfollata dal 24 agosto poiché vivevano a Colle Poste, una frazione di Accumoli. E i progetti che sono stati messi in campo più che altro mirano a contrastare uno spopolamento che vede soffrire già i territori precedentemente al terremoto. Certo. Quindi ci siamo concentrati molto sia sull'aiuto effettivo di persone che vivevano in difficoltà, in condizioni di gravissima vulnerabilità, come dicevo prima, anziani o invalidi in tenda, sono situazioni veramente al limite della sopportabilità, ma anche per far rimanere vivi quei luoghi, perché agricoltori, allevatori, insomma persone che lavorano lì, è giusto che lì rimanessero per continuare a vivere e a tirare avanti una quotidianità che è stata interrotta troppo bruscamente. E certo, perché durante questi eventi, ma soprattutto nella gestione che ne viene fatta successivamente, purtroppo si ha non solo, vabbè, esternamente noi abbiamo dalla città abbiamo la sensazione, poi in realtà è una realtà quello che non ci si occupa delle persone, cioè non ci si occupa del fatto che una persona ha dei legami affettivi al territorio in cui è cresciuto, è vissuto, ma sono anche legami, diciamo, meramente economici, che dici poco, sono i motivi per cui uno deve rimanere legato al proprio luogo, è perché lì ha il suo sostentamento e perché lì vuole stare. Questo non viene tenuto conto perché i tempi delle istituzioni troppe volte sono dei tempi astratti, poco definiti, e quindi la vostra risposta credo che sia stata ammirevole e insomma anche entusiasmante. Come avete fatto? Perché poi avete fatto tutto da soli. Sì, in realtà ci siamo aiutati molto grazie ai social, a un sito internet che vi invito a consultare, www.laviadelsaleonlus.it, e da lì ecco è partita questa raccolta fondi strepitosa che ha battuto ogni aspettativa, perché noi stessi per primi non ci credevamo così tanto, e ogni 10.000 euro all'incirca riuscivamo a comprare un modulo abitativo e a consegnarlo a queste famiglie che sceglievamo in base ovviamente a una gerarchia di vulnerabilità, quindi famiglie più numerose con bambini, anziani o disabili avevano la precedenza. Posso fare una domanda? Ti interrompo, certo. Scusami, come si inserisce in qualche modo nella distribuzione ufficiale? Avete un raccordo di qualche tipo o è completamente staccato, indipendente, quindi con un con un percorso, diciamo, appunto alternativo, parallelo? Guarda, fondamentale per noi è stato raccogliere tutte le informazioni di queste famiglie, ossia se fossero in attesa della SAE, delle soluzioni abitative d'emergenza, le cosiddette casette del governo, per capirci. E una volta arrivata la SAE, noi provvediamo poi a riprendere la nostra casetta e a riconsegnarla a qualcuno che invece è ancora in attesa. Ma purtroppo abbiamo iniziato a farla adesso, perché queste SAE sono arrivate tardissimo. Quindi, diciamo, il nostro operato è andato di pari passo con le istituzioni, ma più che altro ha tamponato un ritardo. Esattamente, esattamente. Di questa situazione che era stata proclamata inizialmente, le casette dovevano arrivare nel giro di 3 mesi, avevano detto. Sinceramente, neanche lo ricordo noi da qui, più, appunto, perché vedendolo un po' da fuori, cercando di seguirlo, veramente cercavamo di, ma arriva, ma succede qualcosa, si sta muovendo qualcosa, chi è spostato, chi è stato spostato sulla costa, in qualche modo anche questo riesce poi a seguire e a tenere i contatti con il territorio, appunto con il luogo abitativo. E su questo volevo ripassare la parola al Ter Ego. Esatto, perché a Riccardo, insomma, è un pozzo di trema la gamba. Trema la gamba, lo vedo che si agita. È un pozzo di conoscenza, insomma, il ragazzo ha studiato. Infatti, insomma, dopo aver avuto un racconto così preciso e puntuale da Leonora, volevamo capire invece cosa dovrebbe essere previsto e fornito dallo Stato. Una domanda specifica è veramente: qual è il problema? Voi avete fatto questo libretto, diciamo, questo vademecum, in cui appunto si traduce un po' l'avvocatese, il leggese, in una lingua un po' più leggibile, insomma, un po' più interpretabile, sì. Giusto? Quali erano le necessità più frequenti, cioè le domande, le interrogazioni più frequenti da parte della popolazione, appunto, che vi venivano rivolte? Allora, sì, la domanda è sicuramente fondamentale. Partiamo da un presupposto: si parlava proprio dell'emergenza abitativa. È ovvio che in una prima fase, quella del, diciamo, il nostro intervento e la nostra struttura di intervento, che poi è anche successiva, sarà successiva proprio anche alla fine dell'emergenza, per quanto riguarda proprio le emergenze in sé, l'abbiamo, diciamo, riassunta in 3 fasi, fasi con cui abbiamo poi, con GSF, con la Via del Sale, di cui abbiamo spesso parlato. Una prima fase, che è quella della prevenzione, quindi tutto ciò che avviene prima dell'evento; la fase emergenziale, quindi quando i beni e di prima necessità e i diritti fondamentali dell'essere umano devono essere garantiti nell'immediato; e la fase della post-emergenza. La fase della post-emergenza è quella che ci riavvia verso, a lungo termine, medio termine, verso una normalità, una quotidianità. Ebbene, ovviamente nella fase emergenziale, quindi parlo nel primo mese, primi 2 mesi, lì le necessità fondamentali erano i beni di prima necessità, andare a mangiare, dove andare a dormire. Posso ancora io, e su questo credo che Eleonora è d'accordo con me, dire che a 1 anno e mezzo il problema di dove andare a dormire è ancora un problema effettivamente esistente. Mi riallaccio anche a quello che diceva Andrea prima. Questi limiti e questi ritardi della pubblica amministrazione, che non sono ben definiti. Questo è parzialmente corretto. Ogni atto che la pubblica amministrazione ha il dovere di realizzare e compiere per tutelare un cittadino che si trova in una determinata situazione con delle caratteristiche specificate dalla legge, spero di essere stato chiaro e semplice per definire il diritto soggettivo in sé, che invece è un concetto giuridico ben diverso, ha l'obbligo di realizzare questo atto, questa attività che ne tuteli gli interessi, in un determinato tempo. Quando si parla oggi dei ritardi dello Stato, che vengono ammessi dalle stesse istituzioni in modo netto, noi stiamo parlando di obblighi di legge che lo Stato non ha garantito. Quindi da un obbligo di legge e quindi da un adempimento inadempimento dello Stato nei tempi previsti dalla legge, è previsto poi un risarcimento e un ristoro per il cittadino. C'è un ritardo politico, ma c'è anche un ritardo giuridico, quindi i diritti del cittadino che non viene tutelato devono essere poi portati davanti a un giudice e garantiti. Per questo è molto importante, e questo è faticoso oggi da andare a raccontare e a narrare a chi vive in una fase che si sta trasformando lentamente da una speranza in una rabbia. Un lavoro che noi stiamo adesso facendo, siamo per uscire con il nuovo Vademecum, la seconda edizione del nuovo Vademecum, un pochino per fare dare un'immagine, mentre il primo Vademecum Mois rappresentava in prima pagina due braccia che un pugno che tirava su l'altro. La nuova copertina sarà invece legata più a una massa di persone. L'idea quindi che mentre prima c'era bisogno di sollevarsi, adesso c'è bisogno di stare uniti. Quindi il discorso e il passaggio sulla collettività.